Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Voto Antonio. Una trasmissione che sempre più spesso si occupa di diritto penale invece che di politica e rete. Le cose sono correlate naturalmente. Questa settimana è stata discretamente intensa, direi, perché ci sono i 22 indagati per vilipendio al capo dello Stato perché avevano scritto dei commenti offensivi sul blog di Beppe Grillo. Ci sono loro. C'è stato l'uomo che ha creato il fotomontaggio di Laura Boldrini, un fotomontaggio osé, dicendo tra l'altro esplicitamente che era un fotomontaggio, che è stato costretto dalla polizia postale a rimuoverne il link, a rimuoverlo naturalmente. C'è un'altra storia che è passata un po' sotto traccia in realtà e che è interessante, se volete, per certi aspetti può sembrare il contraltare della vicenda Napolitano, perché è una ragazza di 21 anni che tiene un sito che si occupa di letteratura. Ebbene, è stata condannata a una multa per diffamazione aggravata, ma attenzione, è stata condannata lei per dei commenti presenti sul forum, mentre invece sono indagati per vilipendio del capo dello Stato non chi tiene il blog di Grillo, ma le persone che hanno scritto questi commenti. Quindi diciamo, il tema è interessante da dibattere, da capire. Ci sono evidentemente nuovi confini che si aprono anche da questo punto di vista per la rete. Si aprono anche perché il dibattito è intensissimo, insomma, ne abbiamo parlato tanto sul tema degli insulti in rete. Una prece per Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, che dice delle frasi curiose, insomma. Allora, chi fa sindacato deve essere a disposizione dei lavoratori che si conoscono, che si rappresentano, dice, fin qua ci siamo, in carne e ossa, non quelli delle mail o che cinguettano su Twitter, che come vedete è uno schifo visto che vi si dicono solo parolacce. Vabbè, insomma, un'idea veramente curiosa anche del mezzo e della modernità. Avremo in questa puntata di Voto Antonio anche, come sempre, l'appuntamento con gli amici di Voices from the Blogs. Parleremo di Ius Soli, come lo percepisce la rete, e vi accorgerete che c'è un livello di emotività molto alto, ma parleremo anche delle priorità, secondo gli italiani che si trovano su Twitter, per il governo Letta. Vi ricordo che potete commentare, anzi ci fa molto piacere, soprattutto sul tema centrale che abbiamo scelto, insomma il tema del diritto e la rete in questo periodo, sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/votaantonioR24. Se cercate Voto Antonio Radio 24, naturalmente su Facebook la trovate. Potete scrivere a me, Simone Spezia, anzi, se volete andate là sul mio profilo Twitter, perché per par condicio non vi posso parlare di cose meravigliose che si trovano in questo periodo in merito alle elezioni per il sindaco di Roma, però stanno uscendo delle cose stupende, da ridere naturalmente, insomma divertenti. Ho messo poco fa su Twitter proprio una cosa che riguarda le elezioni di Roma, e non dico nemmeno il candidato perché sennò l'autority ci multa. Una pausa per la viabilità, poi ci ritroviamo per il punto di Stefano Folli. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è il momento, prima di parlare appunto di rete, di fare il punto sulla situazione politica, capire che cosa, non solo che cosa è successo in settimana, ma soprattutto analizzarlo, vedere di capire soprattutto quali sono le prospettive di questo governo. È il momento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Moscetto questo consiglio dei ministri di ieri, Sì, moscetto. Moscetto, è tutta la cifra fino adesso del governo, che è un po', certo, non entusiasmante. Dipende dal fatto che non ci sono risorse per poter fare qualche cosa di un po' più dinamico e soprattutto di far sognare un po' gli italiani. Qui purtroppo c'è poco da sognare, c'è solo da sperare che il peggio sia alle nostre spalle, però da un governo di grande coalizione che raccoglie tutte le energie maggioritarie del Parlamento e che ha la missione di evitare che le forze antisistema alla fine rompano la diga, beh, ci si aspetterebbe qualcosa di più. Sì, bisogna forse premere un po' di più sull'acceleratore. Certo è difficile naturalmente perché... Le risorse economiche, questo è un problema drammatico. Sì, dico risorse economiche e poi naturalmente probabilmente si sta anche aspettando che si esca dalla procedura di infrazione, cioè in quel momento, no? Certamente. Quello è un punto fondamentale per la nostra posizione in Europa e anche per, diciamo, i criteri generali della nostra politica economica. Però occorre ugualmente fare uno sforzo per creare un po' più di entusiasmo nelle persone. È pericoloso quando la gente comincia a dire, ma quello che abbiamo detto noi all'inizio di trasmissione, no? Però ecco, è tutto un po' troppo sotto le righe. Ecco, questo è un po' pericoloso, infatti i sondaggi non sono entusiasmanti per il governo. Sicuramente. Nel frattempo Silvio Berlusconi si intesta la vittoria sull'IMU, che in realtà ancora non c'è, nel senso che è stata solamente sospesa per il momento la rata sulla prima casa, insomma prima ancora di rivedere il tutto. Però intanto Berlusconi sarà in testa. Vedi, questa è la differenza. Allora, questo è un governo di fatto di persone molto serie, a cominciare dal Presidente del Consiglio, che non dicono mai nulla di più di quello che possono effettivamente realizzare, anzi magari dicono qualcosa di meno. E Berlusconi invece, che è come notoriamente un mago della comunicazione, ecco, mettiamolo in questi termini, lui già è oltre, lui già si è intestato questa cosa dell'IMU, che per la verità è semplicemente una sospensione, però lui già ne parla come se fosse l'abolizione dell'IMU ed è un modo suo, a quanto pare efficace, visto che da 20 anni è sulla cresta dell'onda, per parlare al suo elettorato. Ecco, occorrerebbe saper parlare un po' di più agli italiani, occorrerebbe che lo sapessero fare anche altri. Ma secondo te punta al voto il Cavaliere, in realtà, alla fin fine, no. O no? No, naturalmente il no che diciamo oggi vale per i prossimi mesi, non possiamo sapere cosa sarà di qui a un anno, però per adesso no, non punta al voto. Secondo te non punta al voto? C'è qualcuno però che punta al voto dentro il PDL, forse? Qualcunino mai chiesto, dentro? Mai chiesto di Berlusconi. Sì. Il PDL, diciamo che chi decide alla fine è il Cavaliere, credo, no? Sì, alla fine sì, anche se qualcuno ogni tanto lo consiglia. È vero che poi decide di testa sua, perché oggettivamente mi pare che abbiamo avuto parecchi esempi. È stato sempre così. Senti, a proposito di Berlusconi, perché poi le sue questioni inevitabilmente rimangono sempre al centro della scena, sia quelle politiche, sia evidentemente quelle giudiziarie, che sono strettamente correlate. Naturalmente dopo la sentenza Mediaset, tutta la vicenda Rubi, te lo devo dire in tutta franchezza, sento un odore di stantio terribile. Questa polemica sulla giustizia che si ripete sempre uguale da anni è terrificante, per quanto importante, perché poi alla fine di giustizia sarebbe bene discutere anche senza avere Berlusconi in mezzo, il caso Berlusconi in mezzo, no? Perché comunque una riforma ci vuole. Sì, cioè una riforma ci vuole, ma abbiamo visto come... Se si parlasse di giustizia, se si operasse nel senso di una riforma complessiva della giustizia, intesa la giustizia che interessa agli italiani, il fatto che nessuno nel nostro paese alla fine riesce a ottenere ragione nelle aule, soprattutto della giustizia civile, tutto è estremamente lento, ingessato, su rituali spesso anche anacronistici, ecco, nonostante che molti magistrati poi in realtà facciano il loro dovere fino in fondo, ma il meccanismo complessivo è estremamente farraginoso. Ebbene, se si dedicasse un po' dell'energia che ci si dedica, che viene dedicata ai processi di Berlusconi, a parlare delle sue vicende giudiziarie, alla riforma di questo meccanismo giudiziario inefficiente, credo che gli italiani ne sarebbero molto grati alla classe politica. Forse la classe politica riguadagnerebbe un pochino di quella credibilità che ha perso. Allora, Stefano, a proposito di questo, tra l'altro è stato riproposto il decreto intercettazioni, tra l'altro ne parleremo tra poco, scusami, lo segnalo ai nostri ascoltatori, per la parte che compete il cosiddetto, visto che molto parleremo di giustizia penale, i diritti di libertà in rete, eccetera, eccetera, toccheremo anche quell'argomento, la famosa riproposizione del cosiddetto articolo Ammazza Blog, pari pari a quello che c'è nel decreto Alfano, però naturalmente a te chiedo in generale, insomma, su questa riproposizione di una legge sulle intercettazioni. Abbiamo un problema di rendere efficienti queste larghe intese, perché è inutile fare un governo di grande coalizione se poi si deve vivacchiare, no? Questo è fondamentale, e siamo ancora al punto che questa domanda cruciale non ha una risposta, non sappiamo ancora se queste larghe intese produrranno nei prossimi mesi qualche cosa di veramente risolutivo. Poi all'interno di questa grande coalizione ci sono delle frange che non l'accettano, delle frange che tirano evidentemente per evitare che questo patto possa consolidarsi. È una posizione politica, diciamo, legittima, e produce quello che vediamo, cioè qualcuno nel centrodestra ripropone una legge sulle intercettazioni telefoniche che evidentemente la sinistra non accetterebbe, quindi è come buttare benzina sul fuoco, e dall'altra parte c'è chi ripropone, lo ha fatto il capogruppo del PD l'altro giorno, la ineleggibilità di Berlusconi, che è un po' un controsenso, però è una posizione politica che ha nel movimento di Beppe Grillo i suoi alfieri. Allora, questo vuol dire che ci sono delle frange nel centrodestra e nel centrosinistra che tirano per, diciamo, indebolire le larghe intese e probabilmente cercare di renderle un'esperienza il più breve possibile. Il problema è che si rischia che le larghe intese dureranno nonostante queste posizioni contrarie, ma potrebbero anche durare senza produrre i risultati che invece sono necessari, e questo forse è il rischio peggiore: durare senza dare risultati concreti. Stefano, tra l'altro ci avviciniamo a grandi passi alle amministrative, una tornata di amministrative piuttosto importante, non fosse altro perché c'è Roma, insomma, ci sono anche naturalmente altre città, però naturalmente c'è Roma che è una partita importante. Possono secondo te modificare qualche equilibrio queste amministrative o no? No, penso di no. Penso che questa volta, dopo l'intensa primavera che abbiamo vissuto fra politiche, poi il lungo braccio di ferro sul Quirinale, la nascita del governo della larghe intese, questa volta penso che le amministrative abbiano una carica politica inferiore a quella che hanno avuto in passato. Da noi le amministrative spesso hanno un significato politico molto forte e incidono sugli equilibri di governo nazionale. Questa volta non credo che questo avverrà. Non credi che questo avverrà per quanto riguarda le amministrative? Ma certo, se Roma cambia segno politico, è chiaro che è una notizia, una grande notizia di prima pagina, come pure se Alemanno fosse confermato, sarebbe comunque un evento che fino a qualche tempo fa pochi prevedevano, quindi si tratta comunque di notizie da prima pagina rilevanti, ma non credo che abbiano un effetto di destabilizzare gli assetti di governo nazionale. Le ultime due domande che ti voglio fare prima di salutarti: innanzitutto il Partito Democratico, mi sembra una fase di stasi e di attesa questa, no? Tutto sommato. Direi di sì, devono decidere che cosa vogliono essere, qual è la loro strategia, qual è la loro identità. Vogliono dare un senso più di lungo respiro a questa alleanza di necessità con il centrodestra, oppure vogliono puntare più rapidamente a un cambio di passo politico, ritrovare un'anima di sinistra, ma poi qual è la proposta che fanno al paese, qual è il gruppo dirigente che propongono? Insomma, mi sembrano tantissime domande senza risposta, e c'è una lunga serie di candidati alla segreteria, fin troppo lunga, ma il problema è che forse bisogna chiarirsi le idee su che cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Ultima domanda che ti voglio fare, perché poi ci aiuta anche ad introdurre l'argomento che tratteremo nella seconda parte, che comprenderà anche quei 22 indagati per aver commentato sul blog di Beppe Grillo con insulti al Presidente della Repubblica, però vorrei coinvolgerti sulla parte più propriamente politica, no? Ossia, qual è il tuo giudizio sul reato di vilipendio della figura del Capo dello Stato? stato molto contestato naturalmente da Beppe Grillo, che però ricorda anche che lo stesso Presidente della Repubblica lo ha ricordato ieri con un post, in realtà lo stesso Napolitano non è contrario all'eliminazione del reato, almeno così riferisce Pasquale Cascella, il suo storico portavoce. Sì, guarda, a me sembra che il reato di vilipendio, ricordiamo che esiste anche il reato di vilipendio di capo di Stato estero, esistono varie figure che ruotano intorno al vilipendio, ma anche in questo caso che riguarda il nostro capo dello Stato, a me sembra una fattispecie un po' anacronistica, un po' superata. Quindi io penso che sia opportuno che il Parlamento se ne occupi e modifichi un po' questa norma di legge. Naturalmente finché c'è è chiaro che la norma di legge deve essere sostanzialmente rispettata, è evidente, però che ci sia un'esigenza di adeguarla ai tempi e anche diciamo all'invasione dei mezzi di informazione digitali, elettronici, penso che sia assolutamente un punto rilevante da sottolineare, e l'ha sottolineato lo stesso Presidente Napolitano. Grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Ciao Stefano, noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco dopo una breve pausa. Prima di tutto andremo sulle analisi in rete di Voices from the Blocks e parleremo delle priorità secondo i cittadini italiani che si trovano su Twitter, naturalmente, per il governo Letta, e poi della percezione dello Ius Soli. Una questione molto interessante quella, perché poi avremo anche la dimostrazione pratica con tre rilevazioni fatte di quanto ci sia emotività, no, nelle reazioni immediate su temi come questi. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Abbiamo detto che tra poco ci occuperemo di vicende penali, no, che hanno riguardato la rete in questa settimana, la rete e la politica in questa settimana. C'è chi mi dice, come Massimo Arena sulla nostra pagina Facebook, mi dice però mi raccomando, ricordate anche il problema delle mail rubate e pubblicate al Movimento 5 Stelle. Guardi, lo abbiamo fatto, l'ho fatto personalmente in 9 in punto, se non sbaglio un paio di settimane fa abbiamo ospitato una delle parlamentari 5 Stelle a cui sono stati appunto sottratte queste mail, è stato craccato l'account di posta elettronica e sono state pubblicate in rete le mail. Certamente uno scandalo, però naturalmente oggi non è il tema che affronteremo. Prima non è correlato a questo il tema che affronteremo. Vi sto intanto chiedendo tramite la nostra pagina Facebook, visto che abbiamo introdotto il tema anche con Stefano Folli, se secondo voi questo reato di vilipendio del capo dello Stato deve esistere ancora oppure no. Esprimetevi, dite la vostra se volete. Intanto, prima di venire alle questioni penali, saluto Giuseppe Porro, professore di politica economica all'Università degli Studi dell'Insubria ed è del mitico gruppo di Voices from the Blogs. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, due temi questa settimana. Iniziamo però dallo Ius Soli, ossia il diritto per l'idea che si possa fare una legge per la quale i figli di immigrati nati in Italia possano ottenere la cittadinanza. Diritto naturalmente che può essere mediato in vari modi, si parla di Ius Soli temperato, se richiede per esempio, non so, 5 anni di residenza del genitore, questa è una delle ipotesi, 5 anni di residenza del genitore in Italia, o se sia uno Ius Soli puro, ossia basta arrivare qua, far nascere il figlio e quello diventa cittadino italiano, un po' come succede negli Stati Uniti. Quello che vogliamo affrontare qua è la percezione della rete di tutto questo, come anche in un quadro di evoluzione nel corso della settimana. Allora, Porro, ci supporti con i dati. Noi abbiamo indagato l'opinione della rete rispetto all'ipotesi di Ius Soli, classificando i favorevoli, i contrari, gli indifferenti, la settimana scorsa, prima cioè che si verificasse l'episodio di aggressione a Milano da parte di uno straniero irregolare verso alcuni cittadini, tre dei quali sono poi morti durante la settimana, e abbiamo registrato un favore all'applicazione dello Ius Soli di circa la metà delle persone che intervenivano sul tema, il 49,1%, Un quarto invece dell'opinione pubblica si dichiara a vario titolo contraria all'applicazione di questo tipo di diritto e un quarto della popolazione si dichiarava indifferente. La cosa interessante però è che abbiamo replicato l'indagine a 48 ore dal fattaccio di Milano, registrando, quindi l'abbiamo fatto martedì in questa settimana, lunedì, sui dati del weekend, registrando una variazione significativa dell'opinione pubblica, cioè i contrari all'applicazione dello Ius Soli salgono dal 25 quasi al 32%, scendono di 3 punti percentuali circa i favorevoli e scendono gli indifferenti. Questo significa che il fatto incidentale cambia e cambia non poco l'opinione della rete, riusciamo anche a misurare qual è il peso specifico di questo cambiamento, diciamo circa 5 punti percentuali di cambiamento del consenso. Perfetto, c'è quindi una sorta di reazione emotiva al fatto, no? Un fatto grave che coinvolge un immigrato, per quanto questo non c'entri assolutamente nulla con lo Ius Soli, e però evidentemente ha un impatto, no? Perché poi si è visto tanto in rete, lo dico a mo' di esempio, no? Gente che scriveva, avete visto un immigrato uccide a picconate 3 persone e questi vogliono fare lo Ius Soli, e quindi immagino che avrete anche raccolto, no, cose di questo genere nel corso dell'analisi. Certamente, no? Tweet del tipo aprite tutte le porte e questo è quello che avrete. È chiaro che non è correlato al tema dello Ius Soli, ma questo è il tipo di reazione che poi si registra. Benissimo, e poi però avete realizzato l'indagine anche dopo, siete andati a vedere che cosa era successo e tutto è tornato come prima, quindi proprio un picco emotivo. Diciamo 3 giorni dopo abbiamo registrato di nuovo, realizzato la stessa indagine sui dati dei 3 giorni successivi e abbiamo notato che i valori tendono a rientrare verso i valori che assumevano la settimana precedente, che significa che, come dire, l'impatto emotivo è di breve periodo e viene riassorbito in un tempo che va dai 3 giorni alla settimana. Se c'è qualche effetto permanente sta nel gruppo degli indifferenti, che scende in modo stabile in una settimana, di circa però un punto percentuale e mezzo, significa probabilmente che il fatto incidentale costringe a prendere posizione. Tra gli indifferenti si registrano quelli, so che Radio 24 ne ha parlato qualche giorno fa, quelli che dicono sì, lo Ius Soli è un fatto interessante, però abbiamo molti altri problemi più urgenti. Ecco, in questo gruppo qualcuno in più è costretto a prendere posizione. Ecco, noi cambiamo anche argomento e andiamo brevemente invece su una inchiesta che avete fatto, inchiesta naturalmente analisi sempre, sì. Sempre di questo parliamo, analisi sui tweet per Repubblica.it sulla percezione per quanto riguarda il governo, che anche questo è un tema interessante, ossia qual è l'agenda e le priorità del governo. Brevemente porro e poi chiudiamo, così insomma vediamo di avere un quadro. Ma quello che abbiamo registrato, indagando le priorità economiche suggerite dalla rete verso il governo Letta, è che la rete suggerisce di privilegiare i provvedimenti per l'occupazione. Il 23% circa degli indagati indicano il lavoro come priorità per il governo. Subito dopo viene la crescita economica, il 15%, e le tasse raccolgono, la riduzione delle tasse raccoglie tra varie voci, tra cui l'IMU, circa il 20% dei consensi, delle indicazioni. È abbastanza facilmente interpretabile, nel senso che quando la crisi comincia a farsi sentire ci si preoccupa ovviamente della consistenza del proprio reddito, cioè del fatto che le tasse riducano il reddito. Quando la crisi perdura e si aggrava ci si comincia a preoccupare di più del fatto che viene a mancare la fonte del reddito, quindi il lavoro, e quindi problemi di lavoro, incentivi alle imprese, crescita economica cominciano a diventare prioritari. Grazie anche per questa settimana a Voices from the Blogs. Se cercate Voices from the Blogs su internet lo trovate naturalmente. Grazie a Giuseppe Porro. Noi adesso ci occupiamo, appunto, come si diceva, una trasmissione che si occupa di rete politica, che però finisce ad occuparsi di diritto penale. Termosifone. Secondo me se lo dici tu. Sì, però dovrei essere una donna da buona. Torno domani. Dai, che ce la puoi fare. No. Ce la puoi fare. Termosifone! Vedi? Termosifone! Vedi? Termosifone! Lo senti, è vero poi. Allora, io una volta ho dato del Badaloni a Badaloni ed okay. Era Badaloni! Badaloni! Quindi una gli volta, deve andare sì. Sotto. L'altra volta sono stato querelato, ho dovuto pagare 15 milioni perché ho dei 15 milioni di lire. Sì? Ho detto a un magistrato che si chiama Padalino, gli ho detto Padalino. Padalino! Padalino! Allora il giudice ha detto, era molto. Quello si è incazzato, ti chiami Padalino? Certo, Padalino! Sei terrorizzato, si chiama Padalino, colpa mia si chiama Padalino. E vabbè, iniziamola così, iniziamola scherzando un po', parliamo in realtà di tutte quelle cose che stiamo vivendo in queste settimane. Allora, gli insulti in rete, la polizia postale e la magistratura che si muovono per una serie di cose, i 22 indagati per vilipendio del capo dello Stato per aver commentato delle cose sul blog di Beppe Grillo, per aver detto delle cose pesanti sul Presidente della Repubblica sul blog di Beppe Grillo. Abbiamo anche il giornalista o blogger o quello che è che si è trovato in casa la polizia postale, che l'ha costretto a togliere il link ad un'immagine, ad un fotomontaggio che era espressamente un fotomontaggio nel quale si era messa la testa di Laura Boldrini, la Presidente della Camera, su un corpo nudo, e infine un fatto, come si diceva già all'inizio, del quale poco si è trattato in realtà e che, se volete, è il contraltare di quello che è successo con l'indagine per vilipendio del Capo dello Stato scattata nei confronti degli utenti del blog di Grillo, ed è una ragazza di 21 anni che ha un sito che si occupa di letteratura, che è stata condannata a una multa per diffamazione aggravata per dei commenti contenuti nel suo sito, quindi per nulla che abbia scritto lei. Di questo vogliamo parlare con Ernesto Belisario, avvocato esperto di diritto digitale. Buongiorno Ernesto, ospite nostro spesso, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi. A Giuseppe Corasaniti, magistrato che insegna all'Università La Sapienza di Roma proprio i temi appunto del diritto digitale, un esperto di diritto digitale. Buongiorno Corasaniti. Buongiorno. Partirei da lei e le chiederei di aiutarci a capire, perché nella mia ottica di persona che non è esperta di diritto penale, non è esperta di diritto, tranne qualche esame proprio nell'università dove lei insegna, c'è una sorta di distanza tra queste due vicende, le vicende della ragazza di 21 anni che si becca una multa per diffamazione aggravata per delle cose che non ha scritto lei, ma in quanto responsabile del sito, e la vicenda degli indagati per vilipendio, che sono appunto questi 22. E però in questo caso il responsabile del sito, che è Beppe Grillo, Casaleggio, non ci interessa chi sia, perché non è che diciamo che deve essere indagato, però non viene toccato da questa cosa. Ci aiuta a capire su che basi può avvenire tutto questo? Ma cominciamo a dire che il rapporto fra diritto e rete non è così semplice, e non è così semplice in Italia come non è semplice anche in tutto il mondo. E cominciamo a dire che si tratta di una regolamentazione qualche volta difficile, perché è difficile stabilire un confine fra la libertà di esprimere le proprie opinioni ed idee, che è una libertà assolutamente fondamentale a livello universale, ma anche il diritto di tutti al rispetto della propria dignità personale, che è un diritto altrettanto universale. Ora, Internet è sicuramente una grandissima espressione di libertà, ma non è assolutamente un terreno dove le regole non contano, e soprattutto dove non contano le regole giuridiche, dove non contano le leggi, e in tutti questi interventi, naturalmente si tratta di procedimenti nei quali poi ci sarà un accertamento di legittimità, e cominciano ad esserci anche delle pronunce importanti anche in Cassazione su quello che sono i confini della espressione su internet, ma voglio dire, esistono delle norme che non sono scritte per internet, ma certamente tracciano dei confini. Una di queste è quella che disciplina la diffamazione. Naturalmente altro è la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, che richiede appunto una responsabilità Allora la fermo un attimo, la fermo un attimo. Dottor Corasaniti, no, guardi, la fermo semplicemente perché abbiamo una pausa per la viabilità. Sentiamo la pausa per la viabilità e poi la voglio più precisamente, il tema è questo. Quando e come la responsabilità è di chi tiene il sito e quando invece la responsabilità è di chi semplicemente commenta all'interno di un sito, perché io è questo lo snodo che non riesco a capire nei due casi dei quali stiamo parlando. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Allora, abbiamo lasciato in sospeso appunto una domanda con Giuseppe Corasaniti, magistrato e docente alla Sapienza. Allora, prego. Ecco, fra l'altro su questo è poco noto, ma le leggi esistono e sono ovviamente definite a livello europeo. C'è infatti una direttiva europea che si occupa di commercio elettronico, ma si applica a tutti i servizi che vengono offerti in rete, quindi anche i servizi informativi. E in particolare questa direttiva, che l'Italia ha attuato nel 2003 con una legge a tutti gli effetti, si preoccupa di stabilire che è vero, il responsabile di un servizio che viene offerto elettronicamente, quindi anche un sito internet, non risponde entro certi limiti, cioè deve essere consapevole che il materiale che ospita è in grado di essere dannoso, è in grado di causare danni ad altri. In questo caso, nel momento in cui viene sensibilizzato ovviamente dal soggetto che ne ha diritto, risponde anche civilmente, perché tra l'altro si espone anche a una richiesta di risarcimento dei danni che può essere altrettanto importante. È importante in questo senso adottare delle politiche, nel senso ci sono dei siti che possono ospitare dei commenti liberi e normalmente inseriscono anche un'informativa in questo senso, ma ci sono anche dei siti che adottano una propria politica e quindi preventivamente avvisano gli utenti che inseriscono commenti, che possono rimuovere i commenti e che comunque i commenti devono sottostare a certe regole, che ovviamente sono quelle della normale buona educazione e del rispetto della dignità altrui. Non dimentichiamoci che lasciare una libertà assoluta di espressione significa anche esporsi al rischio, come far entrare in casa chiunque, che poi si possa rispondere appunto per questa libera scelta. E naturalmente tutto questo è lasciato al buon senso di chiunque effettua un certo tipo di attività, però insomma quando un'attività è pubblica, quando si espone all'attenzione degli altri in qualunque settore, beh, richiede anche delle responsabilità. Certo, certo. Affermare che un'attività sia assolutamente irresponsabile è un concetto che non solo è estraneo a qualunque tradizione giuridica, ma non è riconosciuto in nessun punto del mondo. Ernesto Belisario, su questo tema, ma alla fine, sentendo quello che ci dice Corasaniti, a me viene da dire, a questo punto per il vilipendio del Capo dello Stato dovrebbero essere indagati, posto che vi abbiamo chiesto su Twitter e su Facebook che cosa ne pensate di questo reato, se vada abolito oppure no, devo dire che risposte mixate, nel senso che mi aspettavo una sorta di plebiscito dicendo sì, no, insomma è un reato che va abolito, invece ci dice sdoganare il vilipendio un messaggio completamente sbagliato, ci sono modalità comunicative meno superficiali e più efficaci, ci dite le offese vanno punite, le opinioni no, ci dite certo che sì, va mantenuto, dovrebbe essere fatto rispettare tra l'altro, ma a prescindere da questo, insomma, Ernesto, la mia impressione è che a questo punto anche Grillo o Casaleggio, chi per lui, dovrebbe essere indagato, no? Sulla base di quel che ci diceva Corasaniti. L'impressione è che siamo arrivati ad un momento assolutamente topico per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero. Tu prima dicevi una trasmissione che si occupa di politica, che sempre più spesso invece si occupa di queste tematiche. Secondo me, Simone, è anche conseguenza del fatto che per una volta i politici non hanno buttato via gli account di Twitter e i blog dopo la campagna elettorale, e quindi finita la sbornia e anche complice l'assenza della politica, quindi di un governo, le interazioni, quindi le richieste con gli utenti, le loro lamentele, le loro proteste, hanno avuto un'evidenza molto più importante e sono finalmente arrivate all'occhio di chi fino a ieri invece aveva ignorato questi strumenti, facendoli utilizzare soltanto agli staff nelle campagne, e quindi come dire, scopriamo, assistiamo alla scoperta da parte di, come dire, della politica di una serie di problemi che ovviamente esistono, ma molto spesso, come dire, vengono affrontati senza un'adeguata consapevolezza, cioè scoprire un tema dovrebbe anche comportare da parte di chi poi ne parla e addirittura propone delle leggi anche un dovere di studio e di approfondimento sui temi che il dottor Corasaniti ha detto, cioè il web non è un far west, le leggi esistono e la stessa esistenza delle indagini per i casi Boldrino e Napolitano dimostra che delle leggi esistono, poi ci saranno delle indagini che saranno effettuate, ci saranno eventualmente dei giudizi in cui queste posizioni arriveranno a definizione. Dopodiché sul caso del vilipendio è un po' strano e ti dico, il tenore dei commenti mi lascia perplesso, che questa campagna contro, come dire, l'odio su internet, un popolo della rete un po' cattivello, stia andando a bersaglio, nel senso che qui non si dice che il capo dello Stato debba essere diffamato liberamente, stiamo parlando di una cosa differente che è il vilipendio al capo dello Stato, quindi stiamo parlando di una diversa fattispecie proprio come dire, penalmente rilevante, quindi stiamo parlando di due cose assolutamente diverse. E la stessa sentenza che tu prima citavi della blogger condannata anche per i commenti altrui di Varese, secondo me si colloca impropriamente probabilmente e esposta a critiche, poi se vuoi ne possiamo parlare, in questo clima, e cioè abbiamo una degenerazione, poi ne possiamo discutere quanto prevedibile o meno delle discussioni sul web, e quindi quella sentenza è figlia di questo clima in cui si parla di una rete che deve essere regolamentata, in cui si dice che sul web mancano delle regole, che c'è una degenerazione delle conversazioni, e quindi questo prelude forse anche a proposte di tipo liberticida. Certo è che sentenze come quelle di Varese lasciano assolutamente perplessi per l'impianto, per la costruzione giuridica. Addirittura prima Corasaniti parlava correttamente del decreto legislativo 70-2003, che è questa normativa relativa al commercio elettronico, in cui ad esempio, insomma, l'articolo 17 si parla di un'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, invece la sentenza di Varese va addirittura contro la Cassazione, che si era espressa sulla riconducibilità alla stampa di un blog, e addirittura prevede in modo quasi inquietante una responsabilità diretta per i commenti, quindi non una responsabilità per sorveglianza, se vogliamo, una responsabilità di tipo diretto. Pensa questo che implicazioni ha per tutte le aziende. Noi stiamo parlando, non pensiamo solo alla politica, sì, ma pensa se si afferma questo principio e questo criterio, tutte le aziende che come dire, noi stiamo portando sul digitale, perché diciamo con un'agenda digitale ed altre cose, le portiamo sul web, le come dire, convinciamo ad aprire degli spazi anche di discussione, poi arriva questo. Sì, è naturalmente una cosa pericolosissima. Allora, mi dispiace molto per il fatto che semplicemente abbiamo poco spazio, a questo punto dobbiamo chiudere, però prometto che su questi temi torniamo, vogliamo continuarne a dibattere anche sulla nostra pagina Facebook, perché è roba veramente veramente importante. Grazie a Giorgio De Luca in assistenza, Carmelo Lauricella in regia, Ernesto Belisario e Giuseppe Corasaniti per essere stati con noi, a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo lunedì con 9 in punto.